Buonasera a tutti, grazie di essere venuti. Io avrei la richiesta da farvi un favore. Siccome mi viene l'angoscia, no? Allora ci sono possibilità, io mi dico avanti o io mi dico tutti indietro. Se mi dite davanti lo facciamo un po' più raccolti e io riesco a guardarvi in faccia, che è una cosa più così, più conviviale. Nel frattempo vi do anche io il benvenuto, vi ringrazio di essere qui con noi e ringrazio in particolar modo la dottoressa Cristina Tomasi che stasera ci presenta il suo nuovo libro Sani. Ma mi piace perché questo Sani ha il punto esclamativo, quindi noi usciremo di qui con una certezza. È un augurio veramente che fa bene anche, no? Visto che siamo in chiusura dell'anno, tra l'altro questa è una delle nostre ultime iniziative, avremo un periodo di chiusura dal 23 dicembre al 26 e poi il 30 dicembre fino al primo e poi insomma riprenderemo le normali attività della biblioteca. Il prossimo appuntamento con la presentazione del libro sarà il 15 di gennaio con un romanzo dell'autrice Viti, locale anche lei, che ha così ideato, immaginato una sequel del romanzo di Bassani, un omaggio a Bassani, riallacciandosi alla storia del giardino dei Finzi e Contini. Quindi è tutta una cosa da scoprire, come lei si è immaginata la fine, l'evoluzione di quella storia che secondo lei non andava bene così, ecco, finiva troppo male e ha immaginato invece un'alternativa. Non mi dilungo, lascio la parola alla nostra ospite che è seguitissima anche nelle sue rubriche alla radio, sui giornali, quindi è un personaggio che dà molti consigli e quindi stasera ascolteremo con attenzione preziosi suggerimenti di Cristina, che mi permetto di chiamare così. Vabbè, perché, ovviamente. Ecco, ci conosciamo ormai da 40 anni e vi auguro a tutti un buon Natale, un felice anno nuovo. Vi invito a venirci a trovare in biblioteca perché noi dal prossimo anno non faremo più cartoline. Quindi se avete piacere di conoscere le nostre iniziative vi chiediamo di mandarci una mail oppure di semplicemente di venire a trovarci, di tenersi in contatto con la biblioteca perché per motivi... Le mail però le mandate? Sì, perfetto. Per motivi ecologici abbiamo deciso di risparmiare la carta. Cristina, grazie Valeria. E grazie a voi. Grazie, ringrazio Valeria per l'invito, per gli scrittori ovviamente, la Franca Caro che mi ha coinvolto, infatti grazie a lei che sono approdata alla vostra associazione. Sono contenta di riessere qui, ho presentato qualche anno fa il mio primo libro, Oltre la paleodieta. Volete il microfono o sì. Mi sentite? Ma si disperde un po'. Si disperde, va bene, ok, andiamo così. E niente, siamo qui quindi a parlare nuovamente di salute. Di salute penso che si sperdichino in molti a parlare, no? La salute è diventata un business, pensate che escono circa 80 diete ogni settimana, perché è un business, fa dire la gente, no? Gli specchi per le allodole, no? Di che cosa fa bene, di che cosa fa male, ma le uova fanno salire il colesterolo, no? Ma io sono allergica o intollerante al lattosio, allora bevo il latte di soia oppure mangio lo yogurt. Ci sono tantissimi miti che magari vedremo un po' di toccare in questa nostra chiacchierata. Due parole sulla mia persona: io sono specializzata in medicina interna, ho lavorato per circa 14 anni in medicina interna a Bolzano in ospedale sotto il dottor Marchesi come primario. Io ero aiuto primario, mi occupavo in particolare di cardiovascolare durante la mia attività ospedaliera. Nel 2003 sono uscita, ho un ambulatorio privato dove mi occupo, volevo dire che di cardiovascolare sicuramente molto poco, mi occupo sicuramente molto di alimentazione, ma io sono diventata quello che mi piace dire un medico funzionale. L'espressione di functional medicine, cioè di medicina funzionale, è una disciplina che forse in Italia non è ancora arrivata, ma nel mondo anglosassone americano è conosciuta, cioè l'approccio al paziente a 360 gradi. Io ritengo che noi in medicina siamo diventati un pelo troppo settoriali. I tedeschi lo dicono molto bene, lo dicono Fachidioten, no? Cioè siamo diventati un momento idioti specialisti, perché se tu guardi solamente un organo ma perdi di vista quello che c'è intorno non puoi aiutare veramente il paziente. Vi faccio un esempio semplice, la tiroide. Noi abbiamo tante persone, soprattutto donne, che soffrono di distiroidismo, in particolare di tiropatie autoimmuni, meglio conosciute come tiroidite di Hashimoto, hanno un'ipofunzione, ma se io mi limito ad approcciarmi solamente nella terapia alla tiroide, rischio di non aiutare una buona fetta di pazienti alle quali manca anche l'equilibrio di altri compartimenti endocrinologici. Molto spesso hanno un'insufficienza nel corpo luteo, con progesterone basso, con tutte le conseguenze, ok? Molto spesso hanno anche soffrono di stress cortico-surrenale, quindi hanno livelli di cortisolemia bassi, livelli anche di deidroandrosterone basso. Questo è un piccolo esempio, quindi medicina funzionale come approccio in toto al paziente. In questi anni ho conseguito un master presso l'Università di Brescia sull'osteoporosi, malattie del metabolismo osseo, in quanto uscendo dall'ospedale ho scoperto che ci sono un sacco di persone, anche qui la maggior parte sono donne, rotte, a pezzi. Solo che se ne vedi una, due, tre, 10, 15, 30, 50, cominci a chiederti se ci sia qualcosa che non va. Io ho cominciato a chiedermi se mi sfuggiva qualcosa. Mi sono dedicata all'argomento e innanzitutto ho cominciato a fare, ancora partendo dal 2006, a ogni mio paziente il dosaggio della vitamina D, che vi invito calorosamente di andare a indagare. In quanto scopri che dal 70-90% della popolazione, specie qui nelle nostre altitudini, soffre di un deficit di vitamina D. E sempre con grande rammarico e grande tristezza, e devo dirvi anche che sono diventata intollerante, oltre a triste e amareggiata, a delle affermazioni di alcuni colleghi che dicono che la vitamina D non serve, oppure che la vitamina D è una moda. Perché ritengo che un'affermazione simile denoti grande ignoranza. La vitamina D è un ormone e pensate che quasi tutte le nostre cellule del corpo hanno recettori per la vitamina D. E voi sapete perfettamente che il buon Dio, con la natura, a seconda delle vostre inclinazioni, non fa mai nulla per niente. Quindi vuol dire che se io ho dei recettori, significa che sono lì come degli interruttori per essere accesi. Ma se io non li accendo perché non ho sufficiente concentrazione nel sangue di vitamina D, questi interruttori rimangono spenti. E quindi vuol dire che delle attivazioni, tipo la luce non viene accesa su cosa? La vitamina D è uno dei più potenti stimolatori del sistema immunitario. Questo non l'ha detto nessuno, immagino. Io e i miei pazienti voglio che abbiano dei dosaggi di vitamina D sui 50. Per l'osso, guardate, credetemi, sono sufficienti 30 mg per nanogrammi per millilitro. Però per il sistema immunitario 50. Proteggono anche dal carcinoma alla mammella, ovaio, prostata e colon. Infatti, questo tipo di carcinoma, tipo anche del colon, a livello dell'equatore, dove godono del sole perpendicolare per tutto l'anno e non soffrono di deficit di vitamina D, hanno un'incidenza di questo tipo di patologie inferiore rispetto a noi, Nord Europa o comunque nella parte alta dell'emisfero della nostra terra. Sicuramente da aprile a ottobre abbiamo il sole che sarebbe in teoria sufficiente a produrre vitamina D, perché noi sappiamo che la vitamina D viene prodotta nella pelle ad opera dei raggi ultravioletti del sole, diretto, non sotto la finestra, dietro la finestra, e a partenza da quale sostanza viene formata la vitamina D? no? Un incalcio, ma... Il colesterolo. Il colesterolo è il papà della vitamina D e di tutti gli steroidi. La vitamina D, infatti, è uno steroide, vi ho detto che è un ormone, e è parente stretto di tutti gli ormoni sessuali, del cortisolo e dell'aldosterone. E il papà è il colesterolo. Questo è giusto per dirvi, secondo voi il colesterolo può essere quindi cattivo? Se è il papà di cotanti ormoni essenziali per la nostra sopravvivenza. Ma ci arriveremo dopo. Quindi io vi lascio aperta la domanda. Il colesterolo è cattivo? Sì o no? Mi risponderete dopo. Quindi, a partenza dal colesterolo con i raggi ultravioletti, ma noi sappiamo che abbiamo questa campagna mediatica che dice che dobbiamo metterci la crema Total Block, giusto? Quindi fattori di protezione 30, 40, 50 che bloccano completamente la sintesi di vitamina D della pelle. Quindi noi andiamo al sole, ma ci incremiamo e se abbiamo un fattore sopra l'8, la vitamina D non viene prodotta. Sono sufficienti 20 minuti al giorno, solamente con le braccia per andare al sole, ma io chiedo, quanti di voi vanno tutti i giorni 20 minuti al sole da aprile fino a ottobre? Impossibili, perché chi lavora, scusatemi, tutti lavoriamo, avete visto i nostri nuovi palazzi che fanno, no? Tutti i vetri, le finestre non le apri più, perché sono tutti super climatizzati, no? Questa tecnica, no? Che abbiamo tecnologia, no? Bellissimi da vedere, ma molto poco funzionali. Io poi sono claustrofobica, se non apro le finestre veramente comincio a... mi viene ansia. Il problema è questo, non stiamo al sole. Ma pensate che, vi ho detto che dal 2006 che faccio vitamina D a tutti i pazienti, è stato anche il tema della mia tesi di master, i figli dei miei pazienti, quindi sono i cosiddetti teenager, il mio più giovane ha 12 anni, io solo perché ho figli di parenti di voglia più piccoli, perché non ho competenze pediatriche, comunque dai 12 ai 22-23 anni, quindi universitari, hanno dei deficit tali di vitamina D, sono folli, perché questi non escono, il peggio sono gli studenti universitari, le più poverelle sono le suore, che hanno valori allo zero, le suore e le donne arabe. Prego. Una domanda, ma 8 ore all'aria aperta, anche se nuvoloso, si prende vitamina D? Purtroppo di meno. Ah, di meno. Però devo dire anche una cosa, che sarebbe giusto quello che dicono molti miei colleghi, il consiglio che danno ad esempio alle pazienti, in estate non occorre sostituire, cioè prendere la vitamina D perché c'è il sole. Purtroppo vi dico che non è così. Perché io i miei pazienti li sostituisco 12 mesi l'anno, senza soluzione di continuità, cioè praticamente sempre. Perché con l'andare degli anni la pelle diventa anche atrofica e perde anche la capacità, l'abilità adeguata a sintetizzare vitamina D. Quindi si annuvolo di meno, no? Dietro i vetri, vi ricordate i sanatori? 100 anni fa, che li mettevano al sole dietro il vetro. Pazzesco, no? E la vitamina D, pensate che ci sono, noi in Italia siamo un po' indietro, anche in questo, devo dire, mi dispiace dire anche in questo, io sono una convinta italiana, ma in alcune cose proprio non ci siamo. Nei paesi anglosassoni avevano grossissimi problemi con il rachitismo, ricordate? Ma comunque anche in Germania e America, poi figuriamoci, loro mettono la vitamina D alla popolazione, gliela mettono dentro. In tutti i prodotti latte o caseari ce la aggiungono. E negli Stati Uniti anche nel succo di arancia c'è dentro. Loro la ricevono dallo Stato. Vi ricordate che so che anni fa c'era la Parmalat che aveva fatto, ad esempio, latte con l'omega 3 aggiunto, no? Costa 2 euro, ma chi vuole che te lo compri? Come fai a fare a sensibilizzare la popolazione se mi fai pagare un prodotto il doppio. Tu devi darmelo, perché è nel tuo interesse darmelo. Ad esempio negli anziani. C'è un bellissimo studio ancora fatto dal gruppo di Rossini di Verona negli anni 90, case di riposo, hanno dato la vitamina D a questi anziani e hanno dimostrato che cadevano di meno. Il problema degli anziani è che sono sarcopenici, hanno poca massa muscolare e presentano un deficit di vitamina D. Ne avete mai visti gli anziani quando si alzano? Cosa fanno? Che sono un po' travallanti e poi camminano. Ecco. Voi se questi anziani qui li riempite di vitamina D, riempirli vuol dire dargliene ad usare tantissimi, perché per riempirla è come quando voi andate a fare il pieno, non è che mettete 5 euro, giusto? Dici mi faccio il pieno, non ci penso più per un tot. Idem è così con la vitamina D, solo che devi sempre ridarla per mantenere il livello. Agli anziani idem, quindi riduci il rischio di cadere e di fratturarsi il femore. Quindi io dico, mi costa di meno spendere per soggetto anziano, sto esagerando adesso con le cifre, 50 euro l'anno costa di meno la vitamina D, 50 euro l'anno o spendere 200.000 euro se si frattura il femore e deve essere operato con le conseguenze che ci sono, il 25% di mortalità del primo anno. 50 euro versus 200.000. Poi potremo fare anche le proiezioni. Questa si chiama medicina preventiva. Ok? Ma lasciamo che la vitamina D, che abbiamo divagato un momentino. Allora, nel mio libro l'ho chiamato Sani perché è quello che mi auspico sempre per i miei pazienti e volutamente lo dedico. Infatti il sottotitolo è Come il cibo influenza la nostra salute, veramente il titolo andava avanti ma me l'hanno segato perché gli ho detto che era troppo lungo, era Come il cibo influenza la nostra salute, che cosa il nostro corpo fa del cibo che noi ingeriamo. Mi rendo conto che era veramente inadeguato per la prima pagina. Già mi hanno fatto passare la copertina rossa che mi avevano bocciato subito. Alla mia famiglia e a tutti i miei pazienti che sono guariti modificando la loro alimentazione. Io ringrazio veramente questi pazienti che sono quelli che mi danno, che mi regalano l'entusiasmo ogni giorno e che mi hanno fatto imparare tantissime cose per aiutarli e andando oltre da quelle che sono purtroppo le linee guida convenzionali largamente sponsorizzate dall'industria farmaceutica. Un esempio lampante è la dieta che viene consigliata ai diabetici con un carico di carboidrati che è folle. Questa è la dieta convenzionale. Se io vi chiedo che cos'è il diabete, è la glicemia alta, lo zucchero alto nel sangue. Quindi se voi doveste dire a un diabetico cosa mangiare, che cosa gli direste? Senza zuccheri, ditemi, degli esempi, di terapia. Come sono verdura? Frutta e la lascia via, infatti. Allora, il diabetico lascia via i cereali e la frutta e si nutre di verdura, carne, pesce, uova. Semplice. E così gli fai scendere la glicemia e l'emoglobina glicata. Non ci sono altri modi. Oppure gli metti una porzione di carboidrati a ogni pasto e gli aumenti i farmaci o gli aumenti l'insulina. È semplicissimo. Ma se io gli riduco o gli elimino gli zuccheri dalla dieta, che cosa succede? Che il soggetto, se è un tipo 2, magari anche guarisce. Se è un tipo 2 che non guarisce, si dimezzano i farmaci. Se è un tipo 1 insulino trattato, di mezza l'insulina. E chi è che ci perde qui? Le case farmaceutiche. Non noi medici, guardate, credetemi, non date veramente. Noi siamo in mezzo, noi siamo semplicemente tra i pugni nel martello. E chi ci rimette poi il paziente, ovviamente, ma qui ci rimette la casa farmaceutica, sono loro che fanno le linee guida per l'alimentazione. Ok? Noi siamo in mezzo, noi subiamo le linee guida. Nei corsi di università, oggi ancora è così, Io mi sono laureata all'inizio del 91 a Innsbruck. Comunque io ho parlato con studenti che studiano in Italia, in Austria, in Germania, in Inghilterra e a Riga. L'alimentazione non viene trattata come, cioè non c'è il, per dire, non so, il corso dell'alimentazione con l'esame. Non c'è, ancora oggi. Nutraceutica, non esiste. Nutraceutica, ovvero Linus Pauling, ci ha vinto due premi Nobel. Uno dei quali per la vitamina C, vi ricordate? Vitamina C a alti dosaggi. Quando io dico che tratto i pazienti con alti dosaggi di vitamina D, mi guardano come dire, cosa dice questa? Ma con la vitamina C possiamo guarire la gente, ma alti dosaggi significa 30, 40, 50, 60, 70 grammi anche in vena. Questa è nutraceutica, ovvero l'approccio alle patologie con vitamine o micronutrienti, altissimo dosaggio, ovviamente adattati al paziente, al sesso, alla malattia presentata. Io inizio come capitolo del mio libro con il nostro intestino. Vi ricordate Ippocrate? È vissuto oltre 2300 anni fa. E Ippocrate cosa diceva? Diceva che la salute passa attraverso l'intestino. Sono belle queste parole. La salute passa attraverso l'intestino. Noi non l'abbiamo ancora capito. Io vedo tutti i giorni pazienti che vengono dal mio ambulatorio con i problemi più svariati e quando io dico a loro che il problema risiede nell'intestino, a volte mi guardano come per dire questa è proprio svitata. Perché se ti arriva il paziente che ha la psoriasi, psoriasi è un concetto con le macchie sulla pelle, no, che sono anche pruriginose, e tu senti, io faccio sempre un'anamnesi alimentare, cosa mangia, e se io chiedo al paziente come se chiedessi a voi cosa, come mangia lei, le risposte possono essere: io mangio sano. Lì mi viene sempre da sorridere, cerco di evitare. I tedeschi mi rispondono normale, è ovvio che ognuno per sé mangia normale. Molte donne, noi donne siamo fantastiche, noi donne, io mangio tanta verdura. Brava, quindi dico, benissimo signora, ma la verdura è un contorno, in quanto noi non siamo stati costruiti per vivere come ruminanti, trasformando la verdura in grasso, soprattutto in proteine. E quindi vedi dall'anamnesi alimentare che cosa mangia la gente. A volte, per far prendere coscienza al paziente, dico: guardi, facciamo così, per la prossima volta fa questi esami e mi scrive una settimana su un foglio, dico così, tranquillo, cosa mangia, non quanto, non mi interessa, cosa. E dopo, quando mi portano questo, ne parliamo insieme, vedi quanta è la quantità di cereali che ingerisce la gente. Allora, quando mi dici cereali, la gente pensa sempre ai Kellogg's, ai cornflakes, giusto? I cereali sono pane, pasta, canederli, pizza, crackers, biscotti, giubbini e quant'altro. Quindi vedi che la gente mangia di solito in settimana su 21 pasti principali, non voglio neanche considerare gli spuntini, quindi tipo crackers e affini, dalla colazione il cappuccino con la brioche devastante, sono su 21 pasti principali, molto spesso 14 sono fatti di cereali, che possono essere di contorno, possono essere di mancabile pane che è sulla tavola. Li riconoscete o no? Quando tu togli il cereale al paziente perché gli spieghi che ha un problema, è destabilizzato perché dice: ma allora che cosa mi resta da mangiare? È così, perché noi siamo animali abitudinari, noi siamo abituati a anche quello che cuciniamo, non è che noi variamo le ricette ogni 3-4 giorni, sono quelle, magari possono essere 15, che ci danno sicurezza. E poi perché magari se siamo di fretta va bene così, poi fare un piatto di pasta va veloce, giusto? Anche fare un filetto di salmone al forno va veloce uguale, e nel frattempo vi potete fare due contorni, uno crudo e uno cotto, tipo i piselli sul gelato, li pigliate, fate un soffrettino, mettete dentro, intanto i 20 minuti di forno vi cuoce il vostro salmone, vi fate anche l'insalatina. Semplice, no? Basta ovviamente volere, se abbiamo problemi di salute. Comunque, la salute passa attraverso l'intestino. Il nostro intestino è formato da miliardi di cellule che sono una vicino all'altra e che sono legate fra di loro da delle giunzioni da rendere questi legami impermeabili, cioè formano una superficie impermeabile. Sapete quanto, se noi mettessimo tutte le celluline dell'intestino una vicino all'altra, che superficie otterremmo? Qualcuno di voi l'ha mai sentito? 300 metri quadrati. Oh, perfetto, grazie. Oltre 300 metri quadri. Vediamo qui. Abbiamo quasi due campi da tennis noi qui dentro. Quindi vuol dire che la superficie del nostro corpo più grande a contatto con l'esterno non è la pelle, che sono a malapena due, ma è l'intestino. Vi ricordo inoltre che in età embrionale, quando noi siamo ancora le prime settimane della pancia della mamma, il cervello, la pelle e l'intestino si formano da un'unica matrice. Quindi abbiamo un legame fortissimo fra queste tre strutture nel nostro corpo per tutta la vita. Comunque, queste cellule, vi dicevo, formano una superficie impermeabile e c'è una proteina che si chiama zonulina, che è come San Pietro, che dice: apri un momentino un varco che assorbo i micronutrienti, assorbo gli aminoacidi, i grassi, gli zuccheri che mi servono, oppure chiudi. Questa è la situazione di normalità. Sopra questa superficie di cellule noi abbiamo uno strato di muco protettivo, è un film protettivo fatto dalle cellule mucose, e sopra abbiamo qua dentro 2 kg di flora microbica, batteri, un po' di micetti e un po' di virus, ma concentriamoci sui batteri, che sono quelli che ci interessano. Noi abbiamo miliardi di cellule nel nostro corpo, ma pensate che questi batteri sono 10 volte di più. Quindi avete capito che essi comandano loro. Okay? In condizioni di normalità, e come faccio a sapere io se qui tutto va bene secondo voi? Se io chiedo al paziente, come faccio a capire che tutto va bene? Che domanda gli fareste voi a uno per sapere se qui tutto va bene? Si va a regolare. Bravissima, come va di corpo? E se comincia a dire, sono stitico, irregolare, alterno fasi di stitichezza a fasi di quasi diarrea, le feci che aspetto hanno? Uno che ha un intestino che va bene, va automaticamente, sente lo stimolo, va, si siede, evacua. Con delle feci normoformate, quindi né troppo dure né troppo molle. Le feci ci dicono moltissimo sulla salute di un paziente, di come appunto va di corpo, e sono tantissime. Quello che viene con la psoriasi non andrà bene di corpo, veramente devastati. Abbiamo comunque questi batteri, 2 kg di batteri circa, che se noi ne conosciamo circa di 500 tipi, sono molti di più, sono quelli che conosciamo noi finora. Pensate che a Harvard c'è Alessio Fasano, che è un nostro connazionale, un professore, che secondo me, prima o poi prenderà un Nobel. Hanno tradotto, lui ha scritto un libro in inglese, The Gluten Freedom, che è stato tradotto in italiano a settembre di quest'anno, è stato pubblicato, l'ho visto in Amazon, e non so come l'abbia intitolato in italiano, ma il titolo in inglese è bello, proprio la libertà dal glutine. In tedesco lo hanno tradotto come Die ganze Wahrheit über Gluten, ma tutta la verità sul glutine, che è devastante, credetemi, per la mucosa intestinale, per tutti, poi c'è chi è asintomatico, chi è asintomatico. Comunque, questi nostri batteri sono una cosa fortissima, perché loro sintetizzano vitamine per noi, vitamina K2, pare che sintetizzino perfino vitamina C. Noi non siamo più capaci di fare vitamina C. Una volta, chissà quando, riuscivamo a farla, adesso non più. Quindi dobbiamo mangiare la vitamina C se vogliamo stare bene, ok? E producono poi anche acidi grassi a catena corta, che è il nutrimento per le cellule della mucosa intestinale. Ma se stanno bene fanno ste robe, se stanno male non fanno così, perché allora vuol dire che se stanno male prevalgono i ceppi cattivi. Scusate un po' come è diventato un po' Bolzano. Una volta uscivi la sera e stavi serena, adesso come donna alle 10 di sera, ma anche come uomo insomma ci penserei due volte. Io andavo a correre alle 6 di mattina per 9 anni, io non vado più, perché dopo che un mio paziente, capo della mobile, mi ha detto che sono stati rapinati i nuovi alle 6 di mattina, ho detto forse no. La stessa cosa è così, Bolzano prevalgono i ceppi cattivi e allora i buoni soccombono, ok? La stessa cosa succede qui dentro. Quindi vuol dire che io ho il prevalere di ceppi patogeni che non proteggono più la mia mucosa intestinale, che non lavorano più per me ma contro di me. A un certo punto la scia di muco, questo strato di muco, viene aggredito, è di meno e blof, la superficie delle cellule mucose viene esposta ai patogeni, insomma ai batteri patogeni, ma anche a situazioni di stress. Quante persone sono stressate, no? Al giorno d'oggi, anche a agenti atmosferici, a tossine che io assumo con l'alimentazione, a cibi che mi possono disturbare. E qui in primo posto abbiamo i cereali, specie quelli contenenti glutine, tutti, integrali e non. Latticini al secondo posto, non solo il lattosio, ma anche le proteine del latte. Molto più sotto le uova. Quindi tutti questi fattori possono aggredire le cellule. San Pietro di la zonulina, poi non ce la fa più, si aprono dei varchi, dei buchi, e queste sostanze penetrano in circolo. Lì c'è un'attivazione enorme del sistema immunitario. Vi ricordo che l'80% del sistema immunitario risiede nel tratto gastrointestinale e c'è un'attivazione fortissima e di tutti i processi di flogosi, e quindi incominciano l'intolleranza alimentare. Pazienti che sono sempre stanchi, a prescindere poi dai disturbi di coliche addominali, a volte diarrea, a volte stipsi, che la medicina convenzionale ha etichettato come colon irritabile. E quindi c'è il colon irritabile, se ho capito, e qui di giù spasmo, buscopan, la tachipirina e quant'altro. Cosa risolvono? Nulla, perché io non posso fare una terapia sintomatica se non rimuovo la causa. È come se io continuo a avere l'emicrania, io prenderò sempre i farmaci per l'emicrania ma non avrò mai rimosso la causa e continuerò ad andare avanti con attacchi di emicrania. Se io ho un colon irritabile o rimuovo la causa, non andrò avanti con il colon irritabile, a prescindere dagli esami che faccio, da coloscopia, gastroscopia, eccetera, che sono negativi comunque. A parte che questi pazienti hanno molto spesso anche un reflusso acido esofageo molto sintomatico, fortemente disturbato, spesso non correggibile con l'assunzione di antiacidi, cioè inibitore della pompa protonica. Comunque, abbiamo questa infiammazione cronica, questa attivazione massiccia del sistema immunitario, che può anche sfociare purtroppo nel corso veramente del tempo in processi autoimmuni. Il corpo comincia a produrre anticorpi contro le proprie strutture. Sicuramente la più nota, la più frequente direi che è contro la tiroide. Infatti noi sappiamo che il glutine ha un aspetto molecolare, in inglese si chiama molecular mimicry, di mimetismo molecolare, cioè che ha un aspetto simile al TPO, che è un enzima della tiroide, e improvvisamente questi anticorpi si rivolgono verso la tiroide credendo, scambiandoli per patogeni. Quindi io ho una tiroidite e qui mi partono tutti i quadri che possono essere iniziare con un ipertiroidismo anche grave, che scambi anche per un Basedov, e poi sfociano in un ipotiroidismo. Possiamo avere degli anticorpi contro la pelle, che comunque abbiamo la psoriasi, la vitiligine, ma molto spesso le conseguenze sono rosacea, dermatite, quelli che hanno la dermatite atopica, che devono mettere cortisone in faccia, o le dermatiti nelle pieghe del corpo, prurito dappertutto, acne, a tutte le età, 35-40 anni che vengono, che improvvisamente hanno l'acne. Articolazioni, abbiamo dolori articolari diffusi, se abbiamo un processo autoimmune abbiamo un'artrite reumatoide, ma i dolori articolari non sono rari. Poi se di più, se si associano, insorgono in donne che sono in fase, nelle prime fasi della menopausa, quindi in un deficit ormonale estroprogestinico, vengono sublimati anche da questo deficit di ormoni sessuali, quindi specie quando si alzano la mattina, dolori ovunque, molto molto frequentemente in questi pazienti disturbati a livello intestinale che lamentano tallonite, che correla molto spesso anche con l'insufficienza cortico-surrenale. La tallonite è interessantissimo nella medicina funzionale, che cosa fa il nostro corpo. Poi abbiamo stanchezza cronica, sono soggetti che presentano anche spesso malattie infettive, raffreddori ricorrenti, sinusiti ricorrenti. A livello del sistema nervoso, depressione, iperattività, agitazione, è tutto comunque collegato con un'aumentata permeabilità intestinale che gli inglesi chiamano, o gli americani comunque, leaky gut, cioè intestino bucato. Se noi mettiamo a posto l'intestino, ricordate sempre Ippocrate che diceva che la salute passa attraverso l'intestino, riusciamo sicuramente a curare moltissime patologie. Avete domande finora? Prego. Io subito vari stili alimentari. Sì. A partire dalla mia zona, negli anni 80, adesso sono arrivato a un'alimentazione tipicamente italiana, nel senso cerco di equilibrarlo, tanto le prove anche con le capitate da solo. Ultimamente, nell'ultimo anno, sto cercando di evitare l'utile, perché ho letto, ho capito che appunto è dannoso, però evitando il glutine o vado a cercare i cereali che non lo contengono, miglio, carociola, eccetera, eccetera, oppure devo aumentare la dose di proteine animali, pesce, uova, eventualmente, eccetera. Evito tofu, seta, quelle cose lì. Però in questo modo aumento fortemente l'acidità del corpo. Devo sopperire o comunque equilibrare con tanta verdura. No? Cosa ne pensi? Ringrazio per la domanda e le voglio chiedere, perché tutti quelli che io ho conosciuto che hanno fatto la dieta zona mi hanno detto che stavano benissimo. L'ho seguita per un breve tempo, perché comunque il livello proteico era troppo alto. Oltretutto poi avevo smesso di mangiare carne in quel periodo, per cui era abbastanza difficile. Doveva mangiare tanti latticini, quindi viaggiavo. Certo, mi trova perfettamente con cuore. Si sapeva che era sì. No, io tutti quelli che ho conosciuto sono stati, per chi non sapesse, la dieta zona è fatta a blocchi, adesso sono arrivato 30-40, una roba del genere, no? 40 carboidrati, 30 grassi, 30 proteine, ma per ogni pasto. Io la trovo un po' di difficile attuazione, no? Perché se devi farti la colazione così, lo spuntino se lo fai deve essere così, quindi diventa un po' faticoso, perché se ti va di farti il frutto sei già fuori, se ti va di farti l'uovo sei fuori, ok? Però tornando alla sua domanda, allora che cosa ne penso? Ma io sono una low carb high fat, no? Sono una paleo che ogni tanto si mangia la panna montata e il parmigiano o la mozzarella, quindi una low carb high fat, ma io non mangio cereali di nessun genere. Posso assaggiare, ovviamente non c'è nessun problema, ma a casa noi la pasta non la mangiamo, non abbiamo il pane, non abbiamo i biscotti, non abbiamo quello che c'è poi soprattutto in questo periodo qui nelle case, ok? Allora io vorrei mettere una cosa in chiaro, che tutto è acido, tranne frutta e verdure, anche lì alcune specie, poche, ma lasciamo stare, comunque diciamo che tutto è acido tranne frutta e verdura, quindi per inciso i cereali, i latticini, le uova, la carne, il pesce sono acidi. Infatti, anche i legumi, esatto, no? Quindi, se noi dovessimo fare una dieta per il nostro intestino, vanno tolti legumi, latticini, cereali, se hai problemi anche semi oleosi e noci, se non hai problemi delle mani. Allora, io se lei non mangia cereali, ritengo che non ha la necessità di sostituire con cereali non contenenti glutine, ma se dice ma ogni tanto mi piace farmi un risotto, o mi piace farmi un piatto di miglio o la quinoa, mi piace anche a me, me lo faccio, non c'è nessun problema, ma non è che devi sostituire, perché comunque è acido lo stesso, ok? È acido. Quindi dipende sempre lei dove prende, che origine hanno le bestie che mangia lei, se mangia carne. Ecco, mangia pesce, attento, perché sennò va in apporto proteico basso, ok? Questo è il grosso pericolo. Io ho pazienti vegetariani, no, anche pseudo vegani che mangiano una volta magari qualcosa di latticino, così supplemento sempre l'apporto proteico, però questo va utilizzato, perché sennò ha problemi nel tempo. Ok? Poi che lei voglia ottimizzarsi con l'alcalino è una sua scelta, lo può fare tranquillamente cominciando la mattina prendendosi l'acqua con il succo di un limone. Le parole di integratore, quindi io uso delle proteine vegane, derivate dal risello piuttosto che altre cose. Ma allora, la citazione di tutti i ingredienti che sono industriali, in polvere queste qua. Sì. Valgono per il nostro corpo oppure sono spazzatura? Non definirei spazzatura. Allora, nel mondo dell'integrazione è una scienza la medicina ortomolecolare, in Italia la chiamano anche nutraceutica, è veramente una scienza ma è un grandissimo business. E lì è un po' difficile penso per l'utente capire quali sono le aziende serie e quali sono le aziende che invece comprano una materia prima in Bangladesh, ok? Allora, se lei prende una whey protein o comunque una proteina che ha lo stesso valore biologico della whey protein, la classica whey protein, cosa intendiamo per valore biologico? Quanto di questa proteina che noi mangiamo va in sintesi proteica, perché è questo che le interessa a lei, giusto? Allora vi faccio una domanda, perché qui il professor Luca Moretti ha dedicato penso 30 anni di ricerca al catabolismo proteico. Allora, secondo voi qual è l'alimento col più alto valore biologico, ovvero il cibo che quando io lo mangio la maggior parte va in sintesi proteica? Allora vi ricordo, parentesi aperta, che noi siamo fatti di proteine, ok? Cioè, i capelli sono proteine, la pelle, i muscoli, le ossa, gli enzimi, gli ormoni, tutto è proteina. Quindi noi dobbiamo avere proteine per sopravvivere. Proteus, prima, ok? Di tutto. Quindi, qual è, parentesi chiusa, il cibo che ha il più alto valore proteico? Secondo l'uovo. Voi? L'uovo. L'uovo, perfetto. Allora, poi l'uovo, e qui apriamo il sottocapitolo uovo. Bianco o rosso? Chi è per il bianco? E chi è per il rosso? Gli altri si estinguono. Ok. Allora, è rosso. Se voi volete tirar su proteine dall'uovo, buttate il bianco. Ininfluente, ok? Cosa mangiano i bodybuilder? Bianco. Che è una scienza. Una scienza. Ok? Allora, il valore biologico dell'uovo è 48%, 46-48%, sotto il latte materno, ok? Se io prendo il rosso è oltre l'80%, il bianco è 16%, quindi mio marito e mio figlio quando mangiano l'uovo alla Coq mangiano il rosso e il bianco lo piantano lì. Io, l'uovo è un alimento perfetto, ha dentro tutto: lecitina, omega 3, colesterolo, zinco, ferro, magnesio, fantastico, è un concentrato di perfezione. Ma comunque andiamo avanti nella scala dei valori biologici e proteici. Dopo l'uovo cosa abbiamo? Carne e pesce, 36%, ma io quando percentuali, cioè do i numeri, ma e voi potreste chiedermi, ma le altre percentuali dove vanno? Giusto? Quindi se io ho il 36% della carne e del pesce che mi vanno in sintesi proteica, il resto dove va? Il 74% va all'energia. Ma non me ne frega niente di prendere energia dalle proteine, perché l'energia io la tiro fuori da zuccheri e grasso, ok? Ok, va in energia, ma vuol dire che io la butto fuori come prodotto di scarto, che in termine tecnico che si chiama catabolita azotato, dai reni e dal fegato. Ma se io ho un paziente che ha un'insufficienza renale, non posso più, devo stare attenta con le proteine. Scendiamo nella scala del valore biologico. 16-18% latticini, legumi, whey protein, aminoacidi essenziali 11%. Lei quindi sta prendendo una proteina con valore biologico 16%. Se lei vuole... C'è meno scarto però, cioè... No, lei ha uno scarto enorme, ha uno scarto dell'84%. Sì, però la carne, per dire, mi lascia a livello proprio di così, si fa parassiti e tante altre cose, insomma. Allora io le consiglio... io le consiglio un aminoacido, cioè un prodotto con aminoacidi essenziali, con gli 8 aminoacidi essenziali, con un valore biologico del 99%. Il MAP. Il? MAP. Si chiama MAP. Ok? Questo è quello che ha è la sequenza aminoacidica specifica per la specie umana, che va al 99% in sintesi proteica. Io lo uso nei pazienti in dialisi, dove io non devo andare indietro assolutamente con l'apporto proteico se non voglio peggiorare l'insufficienza renale. Lo uso nelle donne incinta. È quello che viene usato da atleti come Dominic Paris, soltanto Coppa del Mondo, donne, squadre di Serie A. Pubblicità? No, non l'ha mai fatto il professor Luca Moretti. Non ne ha bisogno perché ne vende 180.000 pezzi alla settimana negli Stati Uniti. Questo è quello che le consiglierei di prendere, perché sennò rischia di andare in deficit proteico. Poi il resto mangi tranquillamente come vuoi. Sono sempre dell'opinione che il paziente va assecondato nei suoi gusti, se per anche motivi etici il paziente, la persona non vuole mangiare carne, pesce, va rispettato, però va corretto. Poi attento come micronutrienti, sempre vitamina B12, folati, attento di averli ai valori alti. Quando voi fate gli esami del sangue avete dei valori di normalità. Quando voi fate gli esami del sangue controllate sempre che non ci siano le stelline, giusto? Ho sbagliato, è così. Dopo andate a vedere per prima cosa il colesterolo, è vero o no? Sì. Bene, poi vedete che 231 ho il colesterolo alto. I trigliceridi di solito non li guardate, la glicemia non mi viene neanche in mente perché non c'è la stellina, non guardate. Bravo. Ok, allora andiamo un po' più a fondo e andiamo a ampliare i vostri esami del sangue e andiamo a vedere cosa avete. 231 di colesterolo. Io ai miei pazienti di solito molto elegantemente dico sempre: chi se ne frega, perché è l'unico modo per scuotere un momentino, no? Però avete una glicemia di 99, che è ancora nel limite, giusto? Però avete un'insulina a digiuno di 23. E io sono già meno contenta. Voi non me ne frega niente, perché c'è scritto che entro il 24 l'insulina è normale, che entro il 99 la glicemia è normale, giusto? E poi avete i trigliceridi 180 e la Tomasi è sempre più infelice. E poi un colesterolo HDL di 31 e lì sono affranta, no? Allora, se io ho 99 di glicemia e 23 di insulina, vuol dire che ho un HOMA index alto. Che cos'è il HOMA index? Il HOMA index, lo derivato, fai computer, non dovete farlo voi, però è semplicissimo. Moltiplicate il 99 della glicemia per 23 e dividete per 405 e vi viene fuori un numero, questo HOMA index, che quando è superiore al 2 mi sta dicendo che questo paziente ha un disturbo del metabolismo glicemico. Io ho pazienti che hanno un HOMA index di 7. Questi pazienti sono praticamente diabetici, ma non lo sanno. Quando io ho un trigliceridi elevati e l'HDL basso, non sono contenta, perché questo mi dice che io ho uno squilibrio metabolico. E se io non correggo il metabolismo glucidico, è tutta una catena che ha a che fare con la resistenza insulinica, perché un HOMA index alto è espressione di resistenza insulinica. Le cellule non rispondono più all'insulina, non tirano più via il glucosio dal sangue. Poi vado a vedermi ancora l'omocisteina. Il paziente mi presenta 17 di omocisteina. Ma cos'è poi questa omocisteina? L'omocisteina è un prodotto tossico, quando è elevato, del metabolismo, chiamiamolo, dell'aminoacido metionina, che si trasforma in omocisteina e che poi dovrebbe ritrasformarsi di ritorno in metionina. Ma per ritrasformarsi gli servono dei gruppi metile, CH3. E chi dà i gruppi metile? Il gruppo vitaminico B, in particolare folati e vitamina B12. Ma è meglio vedere il paziente che ha una vitamina B12 veramente scarsa e i folati, che sono vitamina B9, vicino a valore basso, sono in riserva grave. L'omocisteina alta è un campanello rosso d'allarme che pone il paziente in aumentato rischio di ictus, infarto, di malattie neurodegenerative come l'Alzheimer e il Parkinson. Quindi ho già un paziente che ha un disturbo metabolico glucidico, trigliceridi, quindi anche lipidico, omocisteina alta, sicuramente B12 e folati bassi e la vitamina magari D anche con un deficit. Quindi è un paziente, questo cosa farò a questo paziente? Innanzitutto gli tiriamo su vitamina B9, B12, automaticamente si abbassa l'omocisteina, lo reintegriamo di vitamina D, lo facciamo muovere, ok? Perché muovendo io stimolo il metabolismo glucidico e gli modifichiamo l'alimentazione. Allora, al signore che farà tutti i giorni la pasta asciutta, diremo di farsi due volte in settimana la pasta, una volta il riso, due volte la carne, tre volte il pesce, e poi ci sono piatti vegetariani da farsi, ok? Basta semplicemente ridurre l'apporto di zuccheri e usare poi i grassi sani. Qui si apre il capitolo. Quali sono i grassi sani? Che grassi usate voi per cucinare? L'olio di oliva è sano. Allora, l'olio di oliva è sanissimo, ma non è la panacea per tutti i mali, come crede la popolazione italiana, che si sta inesorabilmente avviando verso il crepuscolo dell'obesità. Sapete che la generazione attuale è quella che noi abbiamo avuto un trend di umanità di allungamento della vita, no? Questi di adesso stanno andando praticamente incontro a un accorciamento della vita, tutto fatto in casa, ovviamente. Il popolo italiano, in un'intervista fatta anni fa, per strada, gli hanno chiesto da cos'è la dieta mediterranea. Voi sapete che la dieta mediterranea è il patrimonio dell'umanità, peccato che non la faccia nessuno. Ok, gli hanno chiesto che cos'è la dieta mediterranea e hanno risposto al primo posto la pasta, al secondo posto il pane, no? Poi c'era anche la pizza, poi chi ha messo le dette, comunque il primo posto era pasta, le tre P, pasta, pane, pizza. Però, però, noi usiamo l'olio extravergine di oliva, se ho capito, ma ti puoi ammazzare anche tranquillamente e egregiamente con l'olio più buono del mondo. Poi io, mi piace sempre essere molto chiara, l'olio extravergine di oliva che noi troviamo nel supermercato non è olio extravergine di oliva. Perché quel povero contadino che si fa a fondo schiena tanto a prendere le olivette, a portarle a spremere, se lo vuoi doc, deve essere spremuto a freddo lì, in loco, quindi tu devi pagare chi ti, giusto? Chi ti aiuta a tirare giù le olive, a portarle lì, spremerle, le imbottigli, d'accordo, le etichetti, che dovrebbe costare 4 euro? No, vero, siamo d'accordo, vero? Vorremmo che guadagni il poveretto. Voi sapete il disastro che c'è stato degli olivi in Sud Italia 2 anni fa, vero? Ecco, quindi dai 12 euro in su, se poi ci sono un sacco di gaspi, da noi grazie a Dio si riescono a prendere magari taniche a pagarlo di meno perché non hai la bottiglia, insomma fai risparmi un passaggio, no? Prego, al supermercato? No. Ok? Avete visto quel record della Gabanelli sull'olio d'oliva? Sono in mano a holding spagnole, i vari Bertoldi. Pazzesco, pazzesco. Rodante, ecco, che sarà sicuramente una sotto holding, no? È pazzesco perché tu pensi di ti rendi conto che ci pigliano per il naso, no? Quindi gli oli sicuramente, l'olio d'oliva va bene. Se friggete, cosa usate? Olio d'oliva, olio di semi, ecco, io vi consiglio, cioè vi sconsiglio di usare olio di semi, olio di mais per friggere, perché sono oli poliinsaturi, tutti gli oli, tutti, sono delle catene più o meno lunghe, è come la catena di perle, d'accordo? Catene più o meno lunghe di atomi di carbonio, C. L'atomo di carbonio ha 4 posti, ok? Quindi vuol dire, è come se io avessi adesso nella collana, dove c'è la perla, altri 2 filetti, dove vengo, attacco altre perle. Quelle altre perle, se io da tutti i fili sono attaccate perle, vuol dire che è un olio saturo. E le perle sono attaccate, quelli i fili in più, da atomi di idrogeno, saturo. Vuol dire che tutti i legami sono occupati. Un olio saturo è ad esempio l'olio di cocco, saturo vegetale, oppure lo strutto, gran parte. Tutti gli oli di solito sono sempre un misto fra poliinsaturi, saturi, monoinsaturi. L'olio d'oliva è un monoinsaturo, vuol dire che non ha in un doppio legame, in uno, scusatemi, perle dei non ci abbiamo da fare il disegno, no. Comunque vuol dire che non tutti e 4 i posti sono occupati, solo 2, quindi vuol dire che fra queste 2 perle io ho un doppio legame, d'accordo? E l'olio d'oliva è un omega 9, ha un doppio legame in nona posizione, quindi conti primo atomo, secondo, terzo e nono, al nono posto, al nono atomo di carbonio, quindi monoinsaturo, ha 73% circa di acidi grassi monoinsaturi. Gli oli di semi, di girasole, di colza, di soia, e quant'altro, sono poliinsaturi, hanno un sacco di doppi legami. Se io prendo questi oli e li surriscaldo per fare il fritto misto di pesce, le pommes frites, quello che volete, è indifferente, che cosa succede? Che sono altamente instabili, questi doppi legami si spezzano e si formano anche acidi grassi trans che sono altamente tossici. Purtroppo in questi oli si formano anche dei complessi acrilamidici altamente tossici. Quindi tutto quello che noi abbiamo nei ristoranti, il vero ristorante di qualità si riconosce dall'olio, perché loro comprano di norma canister, no? Proprio 5 litri di olio di pessima qualità, perché se io devo pigliare un olio che mi costa 15 euro per cucinare, voi capite? Ma io preferisco spendere 25 euro per un filetto di roast beef quando però mi dici con quale olio l'hai cucinato, ok? Se prendi l'olio di semi di girasole, prendi quello allora ad alto contenuto oleico, è quello che ha quasi l'80% di monoinsaturo, più stabile, tiene la cottura. L'olio d'oliva tiene molto la cottura, veramente fino a 180 gradi. mi va benissimo, però faccio delle confritte, anche no, anche perché lì superiamo il punto di fumo, no? Come si chiama, però non usate gli oli poliinsaturi, va bene il burro chiarificato, mai il burro per friggere. Quando il burro diventa marrone, prego buttatelo, questo è veramente tossico. Non cotto il burro? No, ma va fantastico, ma va benissimo, ma anche se lei lo mette perché fa i gnocchi, lo mette su, basta che lo sciolga, sì signora tranquilla, basta che non lo faccia diventare marrone, scuro. Certo. Un salto di pane in frasca, ma veramente in mente il limone la mattina, che viene ogni tanto sì. Promosso. Il limone la mattina è quello che beve probabilmente il signore, è la cosa migliore che possiamo fare, se ci piace. C'è chi lo fa con l'acqua calda, sì. Io sono buona, io lo faccio con l'acqua fredda, è perché salute è altamente basico. Il limone è uno dei frutti più basici, è acido, giusto? Noi non percepiamo, ma è altamente basico, è sanissimo. Cioè io ad esempio bevo volentieri acqua con limone, spremuta di limone, buonissimo. Sì. Prego. Stomaco vuoto. Stomaco vuoto, fantastico. Sì. Se poi avete. È basico, quindi sicuramente noi che ci alziamo, che probabilmente adesso non so, lei l'ha fatto il pH la mattina? Com'è? Il suo? Dipende, poi del tuo maso sera anche. Ma spesso acido? Ma l'ho provato tanti anni fa. Sì. Dipendeva da cosa. Certo, cosa mangiava la sera? Questo è perché facendo con le io ho fatto con le galline, sì. Il fatto che è acido, sì. È meglio? No. No, noi abbiamo un pH 7,44 di norma, che è leggermente basico. Allora abbondi di limone. E non lo rende più acido? No, il limone è basico, il limone è altamente basico. Il limone è un cibo basico, è forse il più... uno con la più forte carica limone basica. Proprio, non la vitamina C. Limone. Limone e vitamina C sono due robe diverse, ok? Cioè noi possiamo avere la vitamina C, che è acido ascorbico e acido eroccio, ok? Che è anche per limone. Ma io vorrei per favore sfatare un mito, ma è un mito che mi piacerebbe sfatare di subito, e uno ne approfitto adesso, la spremuta d'arancio come carico di vitamina C. Siamo d'accordo con una cazzata, vero? No, se vi piace la spremuta d'arancio perché vi piace, ve la fate, ma per favore non crediate che fate il carico di vitamina C. Noi, le scimmie e i criceti, lasciamo stare i criceti, noi le scimmie abbiamo perso la capacità di produrre vitamina C nel corso dei millenni. Le scimmie hanno un vantaggio però, che sono in mezzo alla foresta e tira giù la banana, mangiano, tirano giù le foglie, non so quante foglie mangiano loro, quindi loro si faranno dagli 8 ai 10 grammi di vitamina C al giorno, ok? Noi prendiamo le arance belle che abbiamo comprato, perché hanno un bel aspetto, no? Che sono state raccolte, nella migliore delle ipotesi, oggi è il 21, giusto? Sono state raccolte il 2 dicembre. Quindi, quando io tiro giù un frutto, qualsiasi frutto, dalla pianta, mi perde la quantità di vitamina C di circa il 40% ogni giorno. Se lo metti in frigo, questa percentuale si riduce, ma quando lei l'ha comprato, lo mette lì nel portafrutta, perché il frigo è un po' freddo, giusto? Ecco. Facciamo la spremuta di vitamina C, dove noi avremo 50 mg forse di vitamina C, ma non vi dico quanto fruttosio invece abbiamo, perché se voi vi fate l'arancio avete le fibre col fruttosio che riducono l'assorbimento di zucchero, se voi invece vi fate la spremuta avete fruttosio puro e qualche altro minerale, va bene, se voi non avete problemi di metabolismo accoglietevi la spremuta d'arancio. Ma se avete problemi di metabolismo, come il signore di cui abbiamo fatto prima l'esempio, eviterei la spremuta d'arancio. O se avete qualche chilo in più nel giro vita, come tra poco ci stiamo avviando ad avere, fra qualche settimana, eviterei la spremuta d'arancio, che comunque non è il mezzo per assumere dosi adeguate di vitamina C, ma dosi omeopatiche di vitamina C. Ecco, mi dispiace di aver distrutto il mito della spremuta d'arancio per la vitamina C, ma bevetela perché vi piace. Ok? Io uso molto la vitamina C come antinfiammatorio, io stessa ne assumo 2 grammi al giorno, uno la mattina e uno la sera. Prego. Io in capsule esterificate. Io. E può prendere anche acido ascorbico in polvere in farmacia. Sì. Va benissimo, signora. Ma mezzo cucchiaino sarebbe. Deve chiedere, io non lavoro con la polvere, lavoro sempre in capsule esterificate. Deve chiedere quanto è circa 1 grammo. Prego. Quanto le uova? Sì. Quante se ne possono mangiare in settimana? Quante ne vuole? Dai bambini. I bambini soprattutto. Le uova potete mangiarne quanto ne volete, ma sale il colesterolo. No, il colesterolo non sale, cioè noi influenziamo il colesterolo con l'alimentazione al 15%, perché noi produciamo colesterolo, ok? Quindi le uova e i bambini sono eccezionali, perché i bambini nei primi anni di vita formano gli occhi e il sistema nervoso e hanno assolutamente bisogno di grasso, saturo e di omega 3. Quindi io ai bambini consiglierei un uovo al giorno, come, a parte che i bambini di norma adorano l'uovo, e se voi date ai bambini la carne non cercano mai il pane. Vi ricordate da piccoli voi, ma mangia un pezzo di pane? No, assolutamente, andrebbe sempre assecondato il bambino e dare la minore quantità di zucchero possibile ai bambini, sono bombardati di zucchero. Avete mai visto le feste di compleanno dei bambini delle elementari? Devastante? Sì, sì. Devastante. Questo non va bene, no? Ma siamo noi che li roviniamo. Non intero, sono tutto? Sì, sì, tutto. Assolutamente tutto. Ma frittata o? Quello che vuole, signora, può fare la frittata col burro, con l'olio di cocco, quello che vuole, l'olio da cocco, l'uovo da cocco. Finita pure. Ma dov'è l'acqua? Sì? L'acqua di tutta l'acqua. Concetto che l'acqua si deve incastrare perché non sono sì, sull'acqua noi abbiamo in casa, stiamo pensando di comprare un apparecchio per arricchirla con idrogeno e penso che ce lo compreremo in Germania. Noi beviamo acqua naturale a casa del rubinetto, perché è buona. Comunque sicuramente sull'acqua si possono fare molti discorsi. Che mette gli ioni? Ionizzato, infatti quello che diceva il signore. Ma può essere che una piastra così... Sì, quindi l'apparecchio che vogliamo prendere noi per idrogenarla è una roba appunto, un po' più grande. Sì. Invece c'era una piastra, appoggiava la caraffa e c'è che veniva ionizzata. No. Mi sembra quindi, no, così. Non mi pronuncio. Prego. Domanda, quando io vado con le bici in ferie a sabato e mangiamo lì, eccetera, io non prendo mai da bere, perché credo che bere in acque gastrici è più difficile di digerire. No, ma lei è vero, quello che dice lei è vero, cioè che bere durante il pasto andrebbe evitato. Perché noi andiamo a diluire i succhi gastrici. No, no, ma è vero, io ad esempio bevo sempre, no, perché mi è sete, però è vero. Sto quanto tempo prima di mangiare? Bere o bere prima, sicuramente. Io e molti miei pazienti che dicono che non hanno sete, che fanno fatica a bere, sapete che bere è un'abitudine poi alla fine, no? E se tu ti abitui a dire, ok, io ad esempio ho una caraffa sulla scrivania che... è una termos dove metto dietro l'acqua fredda del rubinetto, ma non fredda di frigo, fredda di rubinetto, perché è un freddo diverso che il freddo da frigo, con le sue maniere, la mia. E quella è 1 litro, ma non mi basta mai. Io bevo sicuramente oltre 2 litri, quindi vi invito a bere. Vi invito veramente a bere. Poi se volete farvi tè, la tisana, quello che volete, bevate senza zucchero ovviamente. Altre domande? Riguardo l'acqua, si dice noi l'acqua è ottima, però è molto alcalina, no? Si dice che il calcio non si assorbe attraverso l'acqua, ma attraverso gli alimenti, la verdura, mentre l'acqua, cioè il calcio attraverso l'acqua intasa, diciamo, le arterie, cioè porta. Allora, il calcio è calcio, quindi che noi assorbiamo attraverso un liquido, il calcio o un alimento, il calcio rimane calcio. Se noi vogliamo assorbire il calcio nell'intestino, dobbiamo avere adeguati valori di vitamina D. Perché se non abbiamo adeguati valori, noi la buttiamo fuori il calcio. Primo. Secondo, se io mi sostituisco, c'è qualcuno che sta solo a dire, se qualcuno, io sostituisco un paziente con vitamina D alto dosaggio, e specie nei pazienti osteoporotici, e voglio assicurarmi che il calcio che viene assorbito vada nelle ossa e nei denti e non nelle parti molli tipo arterie o reni, allora è meglio dare anche in contemporanea della vitamina K2. Le vitamine K2 D appartengono alle vitamine liposolubili, che sono a cui appartengono anche la A e la E. Ed è importantissimo per l'osso anche la A. Quindi, a chi di voi piace mangiare il fegato, io vi consiglio di mettere un'interiora in settimana, sempre di bestia, di allevamenti adeguati. Se non sapete dove proviene la carne, lasciate stare. Io uso il fegato. La milza? La milza, tutta l'interiora. Tutta l'interiora. Oltre la carne, le proteine animali, qualcosa di vegetale o no. Le dico in questo momento non mi viene in mente, perché carote e quant'altro hanno i caroteni, che è un prestadio della vitamina A, che non tutta viene trasformata. La vitamina K2 che dice? Ah, cosa la prende? Menachimone, la può prendere anche in Amazon, della Healthy Origins. O della Life Extension è ottima. K2 è difficile, K2 è difficile coprire completamente il fabbisogno se lei sostituisce un paziente con vitamina D alto dosaggio tipo 5.000 unità al giorno, 10.000 unità al giorno. Poi, se lei segue una dieta vegetariana o vegana, le consiglierei vivamente di andare a farsi un check vitaminico, micronutrizionale del sangue, e di portarsi a livelli ottimali. Si può fare tutto, però va controllato, perché i problemi vengono col tempo. E di coprire il fabbisogno proteico, deve mangiare molto di più per arrivare alla quantità di proteine necessaria. Non è anche un problema ultimamente sentito che mangiamo troppe proteine, questo non è sano. Io le assicuro che a tutti i pazienti che vengono, il 90% dei pazienti che entrano dietro la mia porta, che mangiano troppi zuccheri e pochissime proteine, e pochissime proteine, e quelle anche inadeguate. Quindi io mi chiedo sempre, dove si sente, lei ha detto una cosa giustissima, no? Si dice che la gente mangia troppe proteine. Ma voi vedete la gente che mangia proteine al ristorante, o vedete gente che mangia zuccheri al ristorante? Guardate cosa c'è nel piatto, ok? Allora io vi faccio anche un discorso veramente economico. Se io ho una famiglia, che siamo in quattro, mi costa molto di meno fare una pasta e un'insalata, fare anche due etti di pasta a testa, è una assurda, però devo dire, se hai dei ragazzi di 15-16 anni ti mangiano, cioè, quindi, etti. Però mi costa di più se io prendo della carne di alta qualità o del pesce, penso che 4 grammi di pesce di 60 euro, ok? Prego. Lei parlava prima di qualità del cibo, sì. Soprattutto della carne. La carne comunque contiene tantissimi ormoni, farmaci, eccetera. No. Io sto dicendo carne di allevamento adeguati. Dovrebbero scrivere. No, la carne in alto agio è la BioBeef, cioè la BioBeef, che è un consorzio di contadini altoatesini. Io sono anche vedere di due stalle, perché siccome non mi fido, se io devo consigliare qualcosa, devo andare a vedermi anche come è rilevante. Allora, le bestie sono libere in stalla, in estate sono in malga, ricevono fieno, erba, acqua, sale, punto. E loro sono veramente controllati. La carne che la portano ha un costo poi dal macellaio, insomma, no? Si acquista solo online, però. Pardon? Si acquista solo online, si acquista solo di internet. Internet o i telefoni. Hanno una cosa che io ho provato a fargli capire in questa verse, che loro ti portano il sacchetto dove hai dentro tutto sottovuoto, quindi tutto scritto sottovuoto che metti subito in frigo, però hai i bistecchi, mi sta bene, hai del macinato, già questo ti rompe, però dice vai a fare le polpette, così hai il goulash, va bene, poi c'hai il, quello per fare arrosto, che esempio non faccio mai, vabbè, ma puoi fare il goulash, non so quello che vuoi, quest'altro, e poi c'è carne da brodo, no? Tutto in tagli già fatto e pronto per essere messo in freezer, te lo consegnano loro. Poi ci sono un tot in giro per l'Alto Adige di contadini che allevano bestie in maniera adeguata e macellai che tipo il Hannes Meyer a Terlano che ti dicono anche da dove viene la bestia, perché sono andati a vedere se i veri macellai girano. Questo l'ho imparato da macellaio. Vanno a vedersi gli stalli, vanno a vedersi le bestie come vengono allevate, lì le trovi. Fatica fai sui benvenuti, perché una volta c'era il Val Venosta, non so se era là, ci sono in altra Val Venosta, un allevamento di galline, di polli. Era fantastico perché avevi polli biologici. Questo l'ha chiuso e si è messo a fare, si è messo a fare, e ve lo consiglio, oli biologici, lui ha tutti oli di altissima qualità biologici, sicuramente meno fatica e più soddisfazione che un allevamento di polli biologico, però peccato per noi perché gli oli biologici sono dei vecchi di semolino, di canapa, giusto, eccetera. Bene. Ho trovato un'azienda di Pugliese che vende l'olio non filtrato a un buon prezzo, no? È meglio non filtrato a questo punto, no? Piuttosto un pochino più. Sempre spremuto a freddo, fantastico. È come con i latticini, se tu hai il latte, buonasera signora, se tu hai il latte appena munto, non pastorizzato, non omogenizzato, mi hanno chiesto via Facebook che cosa ne penso del nuovo prodotto della Mila. Schir. Sì, ma concettualmente mi sarebbe piaciuto molto se gli avessero lasciato dentro il grasso originale. Quando comprate lo yogurt, per favore compratelo intero, bianco, senza zuccheri aggiunti, occhio perché bisogna stare attenti adesso perché se tu non leggi bene ci sono zuccheri aggiunti perché la gente vuole dolce. Sì. Lo yogurt di capra. Fantastico, l'uovo di capra, va benissimo, va benissimo. Rispetto a un intero magro. Di vacca dici, no, io magro non lo voglio mai, perché magro viene sempre tirato via il grasso e viene messo o zucchero o dolcificante. E a volte ti mettono dolcificanti che hanno un impatto negativo sulla flora intestinale. Quindi sempre intero, va benissimo. Hanno una composizione di grassi un po' diversa rispetto al latte di vacca, che ha un 3,6%, questo va su oltre il 4%, e sono più assimilabili, pare però, il tipo di grassi che hanno. Ecco, però è una questione di gusti, perché ha un gusto molto intenso. A me ad esempio piace molto il formaggio di capra, che non piace a tutti, che è insomma un po' forte, ma va benissimo. Prego. Posso dirle che cosa ne pensa del libro delle ricerche del professor Lungo, che delle sue proposte? Allora posso dire una cosa, io a me è bastata l'introduzione. È stata l'introduzione perché Longo non è medico e non ha nessun problema da imparare da tutti, però secondo me dice solo come se avesse in mano la scienza lui. Ecco, io devo dire che quello che fa lui lo considero business. Ad esempio Barry Sears, io non voglio entrare nei come posso dirle, nei giudizi non voglio, non mi piace. Io posso dire solamente questo, e questo magari lo dico anche per chi vive vegano, no? L'importante è fare sempre coscientemente ogni scelta alimentare, e lì siamo sul verso vegetarismo, veganismo. Il veganismo è comunque una perfetta, d'accordo, di alimentarsi che non c'è mai stata dell'umanità. Okay? Questa è nata dopo la seconda guerra mondiale in poi. L'essere umano non si è mai nutrito in maniera vegana perché non siamo stati costruiti così. Noi ci siamo nutriti per millenni mangiando quello che raccoglievamo. E se raccoglievamo, bene. E se non raccoglievamo, digiunavamo. Quindi voi capite che anche qui il digiuno intermittente, trovate nel mio libro i capitoli, è vecchio quanto l'umanità. Ma mangiavamo pesce, carne, e se prendevamo, non so, l'antilope, faccio l'esempio, sciocco, qual è la prima cosa che si mangiava, la prima cosa che mangia un leone quando cattura una bestia? L'interiore. E pianta lì il resto, le femmine e le iene, che non gli frega niente, nei muscoli, ok? Quindi quella è la cosa sicuramente più nutriente. O pesci, o vacche, o coltivavano le cose così. Quindi faccio presente questo, che noi abbiamo un apporto, sempre avuto un apporto comunque animale. Adesso è sicuramente più difficile per la sovrabbondanza che abbiamo di prodotti di scarsa qualità e un'abbondanza folle di prodotti industrialmente modificati. Basta entrare al supermercato e guardarsi intorno. Dai biscotti, giusto? Ai crackers, alle merendine, ai panettoni che costano 3 euro, le fette biscottate, robe amate, infatti. Sono anche etichette che si dice traggono un po' in inganno perché senza zuccheri aggiunti, senza. Ma allora, se voi trovate una marmellata con su scritto ciao Patrizia, se voi trovate una marmellata con su scritto senza zuccheri aggiunti, e poi ficcano dentro il fruttosio, ti ficcano dentro il setosio, non esiste la marmellata senza zuccheri aggiunti. Ma il fruttosio ti dà l'idea che sia del frutto, no? Invece ma il fruttosio, ripeto, non è un problema, solo che in natura c'è sempre anche del glucosio insieme, ok? Però crea comunque, se un paziente, una persona ha un problema di metabolismo, ha un problema. Voi dovete abituarvi alle etichette. Allora io sono sempre dell'opinione che se un cibo ha un'etichetta che comincia a diventare lunga, non è più cibo. Perché se io mangio la coscia di pollo, del pollo del contadino, ci sarebbe scritto su coscia di pollo, giusto? Punto. Se io compro l'uovo, c'è scritto su uovo. Se io comincio a comprare le fette biscottate, si apre il firmamento. Se compro la merendina, anche lì, anche biologica, Quindi guardate il numero di carboidrati, guardate poi soprattutto dopo il tipo di oli che vengono usati. Il peggio sono quelle che c'è scritto su brioche, merendine vegane. Provate a guardare, che hanno tutti quelli che hanno dentro margarina. E peggio in assoluto di quello che noi possiamo mangiare. Le voglio chiedere? Sì, scusi, volevo chiedere questo. I miei figli, no? Fanno molto uso, tornando al discorso di yogurt, no? Sì. Quei yogurt Mila che hanno abbinato per la confezione di cereali, sì, cose, eccetera, sì. No? Fanno come muslim, no? Sì. Ecco, volevo chiedere, mi sono fatto capire che fosse più orientato adesso al yogurt, diciamo, tradizionale, cioè bianco, no? Intero, semplice, sì. Sì. Okay. Se aggiungo io quello che voglio. Proprio. Sì. Quindi questi qui che sto accendo io adesso, lei li intende? Io non li intendo. No. Perché non vado bene, insomma. No, perché hanno, se lei guarda il contenuto di zucchero che hanno, è alto. Noi abbiamo già lo yogurt e il latte, hanno già il lattosio, che è zucchero. Io vi ricordo che il lattosio è uno zucchero. Abbiamo già uno zucchero lì dentro. Quindi mi prendo un yogurt naturale, quelli che sono tutti gli yogurt che hanno zucchero aggiunto nello yogurt e nella parte, quello che lei ci mette dentro, hanno un altro contenuto anche questo di zucchero. Comunque c'è quella parte di cereali che dovrebbe in teoria dare anche una certa energia, no? Allora, se noi pensiamo che dobbiamo prendere... No, certo, pensavo che dobbiamo prendere l'energia dallo zucchero, l'energia la deriviamo dallo zucchero o dal grasso, ok? Quindi non abbiamo bisogno di quel tipo di zucchero. Allora, se si mangiano due banane, è meglio. Perché allora anche tutta quella serie di yogurt, sì, certo, diciamo alla frutta, ma che sono favolosamente appetitosi, sono da, insomma, non sono ideali, cioè. Io li sconsiglio vivamente, perché tutti gli yogurt alla frutta hanno, ad esempio la Müller, che è tanto bravo a fare pubblicità, lavora solo con aromi, non hanno dentro frutta, hanno aromi, è il più grosso consumatore germanico di aromi. No, no, nella yogurt alla marmellata, nello yogurt alla, cioè, alla pone, alla pesca, ci sono pezzi di mila, sì, frutta. Di allora, questa li trova nella mila, voi trovate molte marmellate dentro, degli yogurt al lampone, gli yogurt alla fragola, ci sono dentro anche pezzettini, tutto permesso, di anche legno, che danno quella sensazione del semino, ok? Non c'è il frutto della marmellata. E con aggiunte di zucchero che sono assurde. Abituate che le avete un'etichetta. Cioè, se io compro uno yogurt, sull'etichetta ingredienti deve esserci scritto yogurt tipo A, fermenti lattici, top, perfetto, quello è lo yogurt. L'ottimo sarebbe fatto da sé, del latte fresco, pastorizzato, non alimentato, non è praticabile, sono difficilmente praticabili. Allora pratichiamo nel quotidiano quello che il buon senso ci dice che è fattibile. Cerchiamo di evitare fonti di zucchero aggiunto. Perché uno, diciamo, mi ha tratto ovviamente, certo, dall'immagine, no? Poi il contenuto, no, è questo buon sapore, sì, poi vedi questi pezzettini di frutta, eccetera, vuol dire, quello che poi, vedi che, no? È come non percepire, no? Ma c'è il detto che dice non è bello ciò che è bello, è bello ciò che piace. Potremmo dire anche non è buono ciò che è buono, ma è buono ciò che piace. Ad esempio a me fa schifo, no? Perché per me è talmente dolce che ci trovo l'importante. Una volta piaceva anche a me. Io preferisco, ripeto, prendere lo yogurt naturale, sono io che metto dentro il frutto che decido io. O io che metto dentro, non lo so, ad esempio, ci piace un muesli. E io ho proposto un muesli che è fatto con praticamente tutti i tipi di noci e con tutti i tipi di semi oleosi. E questo qui, il muesli, ce lo mette dentro lei nello yogurt, ma è il muesli che ha fatto lei, sa perfettamente cosa c'è dentro, quindi che sono prodotti di prima qualità, ok? È come i biscotti. Se il biscotto viene fatto in casa col burro, con la farina e con le noci, i biscotti industriali non avranno il burro, avranno la margarina dentro, avranno una farina scadente e avranno comunque prodotti scadenti. Quindi sta a voi seguire la pubblicità o seguire la salute. Scusi, volevo prego. Prima parlava della vitamina D. Sì. A un bimbo piccolo bisogna incominciare già a somministrarla e ma come? Di solito nei bambini piccoli viene somministrata dal primo giorno di vita, sì, dal pediatra, no? Cioè viene voce, voce, voce, sì, ah, voce, voce, certo. Ma sì, che cresce bene. Comunque, abbiamo parlato, toccato le proteine, ci sono tutti i capitoli nel libro sulle proteine, sui carboidrati, sui grassi, sul digiuno intermittente, sull'amido resistente, sull'intestino. E poi, prima di ogni capitolo delle ricette, insomma, è spiegata la carne, quale carne sì, quale no. Stessa cosa del pesce, delle uova, non so se avete altre domande. Sì, riguardo al pesce, sì, sappiamo che i mari sono ormai inquinatissimi, sì, cioè il pesce di mare mi sa che è un ricettacolo di inquinati di tutti i tipi, perciò è meglio avere pesce biologico che di acquacultura. Cioè, sicuramente, se lei ha una cultura, lei ha perfettamente ragione. Io che sono un amante del salmone, sono perfettamente conscia che è salmone. Notte, che è salmone di allevamento, perché voi siete tutto pallido, siete il salmone selvaggio, è rossissimo, è quasi. Ha un gusto fortissimo. È un gusto forte, sì, ma non lo trovi. E dicono che è quello più. Sarebbe migliore se non lo trovi, però non lo si trova più. Ecco, però se sai che c'è un buon allevamento, ecco, lì fai l'atto di fede. Ha ragione, perfettamente ragione, perché se hai un buon allevamento dove ti, allora dici va bene, sono tranquilla. Signore, io vorrei solo Sì, prego. Anch'io. Prego, prego. Ciao.